tradire lo stupendo e disir che desta amore. Ah, sì, sì, capisco, intendo. Io ne son distirpatore. È fia vero? Sì, se ne fa gran consumo in quest'età. Ah, fortuna, e ne vendete? Ogni giorno, tutto il mondo. E qual prezzo ne volete? Poco assai. Poco. E cioè, secondo. Un zecchino, null'altro qua. Quella somma che ci va. Apprendetelo, dottore, apprendetelo. Ecco il magico liquore. Obbligato, assi obbligato, son felice, son contento. E disire di tal bontà, benedetto chi ti fa. Nel paese io girato, son felice, son contento. Nel paese io girato, benedetto chi ti fa. Non è qual in verità, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova. Obbligato, son felice, son contento. Il cuore non si danno, non si trova, non si dà. Non si trova e non si dà. Non si trova e non si dà. Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote? Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Ehi! Quindi all'afro lo avvicini, ehi! E lo bevi a centellini, ehi! E l'effetto sorprendente non è tardi a conseguir, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguir. Sul momento, a dire il vero, è necessario un giorno intero, tanto è tempo sufficiente per cavarmela e fuggire. E il sapore? Eccellente! Eccellente! Eccellente! Lontano di qua, amor, c'è Tassaroni.